24 di Giovanni Minoli. Il premier Renzi a Teheran, primo leader occidentale in visita al governo Rouhani, dopo l'accordo sul nucleare che ha messo fine all'embargo nei confronti dell'Iran. L'Italia è un amico prezioso, ha detto il presidente iraniano, torni ad essere il primo partner per il nostro paese. Immediata ripartenza dei rapporti economici. Energia, infrastrutture, ma anche ricerca, turismo e moda, e anche una commessa da oltre 3 miliardi per le ferrovie. Nella delegazione italiana presente anche l'amministratore delegato di Eni, Claudio De Scalzi. L'alleanza è anche nella lotta all'ISIS e nella cooperazione sull'emergenza umanitaria dei profughi. Persone che confondono la fede nell'Islam con il terrorismo e la violenza. È un grave errore. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, buongiorno. Ecco, tu buongiorno, sei appena tornato da Teheran. Renzi è stato il primo leader occidentale che ha visitato l'Iran dopo la fine delle sanzioni. Secondo te perché proprio lui? Per la verità non è il primo, perché il primo è stato il leader greco Tsipras. Diciamo che Renzi è il primo dei paesi importanti europei. E c'è un perché? Sì, c'è una forte tradizione di rapporti diplomatici con l'Iran. L'Italia è stato il primo paese con Dini a riaprire l'Iran negli anni 90 quando ci fu la crisi degli ambasciatori. Poi Prodi fu il primo a visitare Khatami, presidente riformista, nel 98. E insomma l'Italia è sempre stata in prima linea dei tempi. Senti, ed è un'apertura di credito importante per l'Italia? È un'apertura di credito importante perché l'abbiamo fatta noi con le nostre linee di credito, 4,8 miliardi di euro. E la partita più grande qual è? Quella sulle infrastrutture? Penso di sì, cioè il problema grosso per gli iraniani, soprattutto per il presidente Hassan Rouhani, è dare l'impressione che il suo governo riesca a cambiare il paese e a dare nuovi posti di lavoro, quindi le infrastrutture sono sicuramente, l'industria è il problema centrale. E quali sono i paesi che sono i nostri concorrenti maggiori su questo mercato delle infrastrutture? Il paese più concorrente maggiore dell'Italia è sempre stata la Germania insieme alla Francia in Iran, anzi la Germania per la verità è stato il primo partner come paese esportatore, poi nel computo dell'interscambio esportazioni e importazioni di petrolio l'Italia in qualche anno è risultata al primo posto. Ecco, l'asse che sta influenzando in maniera decisiva i destini del Medio Oriente è quello tra la Russia e l'Iran. Noi italiani stiamo forse spostando il peso delle nostre relazioni speciali dagli Stati Uniti verso Mosca e Teheran, oppure no? Ma direi che più che altro è l'evoluzione geostrategica che c'è stata. Notate per esempio la questione del petrolio e dell'OPEC. L'OPEC è andato in crisi per la rivalità tra Iran e Arabia Saudita, però i russi fanno da mediatore. I russi non sono mai stati un paese del cartello petrolifero, però sono dentro. Infatti, anche lì sono fuori dall'OPEC. Senti, ma in fondo il disimpegno americano nel Mediterraneo ci costa di più, ma forse saremo più liberi di scegliere, giocare su varie opzioni? Beh, diciamo che l'impegno americano nel Mediterraneo ci è costato dei disastri terrificanti. Appunto. A partire dall'Iraq per proseguire con Libia. La Libia, sì. Come ha messo lo stesso Obama, ma anche la Clinton. C'è da augurarsi che questo apra nuove prospettive. Certamente per esempio la crisi con l'Egitto, l'Italia e l'Egitto, in qualche modo deve essere compensata con altri mercati. Ecco, ma tu che conosci molto bene l'Egitto, perché stare un attimo sull'Egitto, hai sentito le dichiarazioni di al-Sisi? Sono dichiarazioni, insomma, veramente, non dico di presa in giro, ma di un leader che non ha intenzione di fare marcia indietro su niente. Ma direi proprio di no. Mi sembra che al-Sisi abbia risfoderato il vecchio manuale. Dalla colpa del ai giornalisti, insomma. Dalla colpa ai giornalisti, risfodera il vecchio manuale del Rais e in qualche modo fa capire che questo è un po' l'autunno però di questo generale, nel senso che non verrà magari sbalzato dal potere domani, ma deve rendersi conto che o aggiorna il manuale del Rais o si aggiorna lui stesso. Ma che impressione hai avuto sul governo Rouhani? Cioè, Teheran è una città che è in fermento ed è davvero, davvero nuova? Ma innanzitutto sono aumentati i prezzi degli hotel, perché arrivano delegazioni straniere a raffica, però gli effetti del dopo sanzioni si devono ancora sentire, ci sono ancora molti aspetti ancora da rivedere, e soprattutto Rouhani è sotto pressione, ha vinto, sì, in qualche modo si è rafforzato, diciamo, con le ultime legislative, ma il prossimo anno alle presidenziali deve portare dei risultati. Ecco, però è sempre una teocrazia comunque l'Iran. Diciamo che è una teocrazia che però riesce a fare un gioco astutamente, come dire, popolare, nel senso che le elezioni non sono troppo falsate, però gli iraniani devono scegliere sempre tra personaggi che vengono dal sistema. Il sistema si regge su questo, sul fatto che in qualche modo l'Iran, la Repubblica Islamica, fa un gioco che fa credere, insomma, che c'è una democrazia, in realtà c'è un ricambio tra le elite e le oligarchie che la dominano dai tempi della rivoluzione del 79. Ecco, senti Negri, è un paese di 81 milioni di persone, l'Iran, che è impegnato in una guerra durissima, e qui si vedono i risultati sul mercato del petrolio, con l'Arabia Saudita, che è una guerra che non è solo economica. Chi vincerà? Ma io penso che l'Iran abbia buone possibilità di affermarsi, nel senso che il modello iraniano è certamente quello di una repubblica islamica, ma è un modello che parte dal basso e sale verso l'alto, nel senso che il popolo è comunque chiamato a eleggere i suoi capi, anche se nella maniera molto limitata che ho descritto prima. Sì. Il modello saudita è un modello che parte dall'alto e va verso il basso, cioè una monarchia assoluta. È quella dei Saud, secondo te, è una dinastia che è in difficoltà irreversibile? Irreversibile non lo so, ma certo, sta cercando di lavorare diplomaticamente per uscire dall'impasse in cui si trova, è una sorta di Vietnam arabo in Yemen, e sta cercando, insomma, di rafforzare i legami con gli altri paesi musulmani, dall'Egitto alla Turchia, perché poi ha perso la guerra in Siria, cioè Bashar Assad non è riuscito a buttarlo giù. Certo. Senti, ma torniamo all'Italia. Noi lo stiamo vedendo più o meno degli ottimi rapporti con tutte le petromonarchie, ma è perché siamo più bravi, perché contiamo meno, perché non facciamo paura a nessuno? Perché? Beh, noi abbiamo una necessità come il pane di procurarci energia, dal petrolio al gas, no? Ne parlavo anche l'altro giorno con Descalzi, quindi puntiamo su tanti paesi diversi che possono essere nostri fornitori, più fornitori si hanno, meno rischi si corrono. Ecco, ma Descalzi è preoccupato per la situazione in Libia, l'amministratore delegato dell'ENI? L'amministratore delegato dell'ENI mi è sembrato assai contrario a qualunque nuova guerra stupida, così mi ha detto. Qualunque guerra stupida, e quindi anche questo passaggio del ministro degli esteri italiano in Libia per tentare di dare una mano nell'insediare questo governo voluto dall'ONU, che effetto può avere? Ma un effetto positivo, perché si è accompagnato soprattutto da un'azione diplomatica e anche concreta sul terreno che faccia sentire ai libici che si può tornare a una vita normale, cioè ad avere la luce, avere il gas, avere degli ospedali, avere la sanità, insomma tornare ad avere un paese che funziona. Ecco, ma a parte l'aumento dei prezzi degli alberghi, come mi hai detto, che impressione ti ha fatto la vita della capitale di Teheran? Ma Teheran è una capitale che ha 14 milioni di abitanti, un traffico indiavolato, è sempre stata una città viva. E gli iraniani al 60% sono sotto i 35 anni, quindi è evidente che è un paese giovanissimo, ha grandissime aspettative. Senti, un'ultima cosa, in Iran siamo passati dalla stagione di Ahmadinejad a quella più pragmatica di Rouhani. Però gli ayatollah non sono cambiati, quindi lì un punto di confronto vero o prima o dopo ci dovrà essere? Ma certamente, anzi è già in corso, perché per esempio Renzi ha visto sia Rouhani presidente che Rafsanjani, che è capo dell'Assemblea dei Sette, uno insomma degli uomini chiave, e anche Khamenei. È stato abbastanza divertente, sono stati abbastanza interessanti questi colloqui, hanno avuto anche dei momenti divertenti. Perché? Per esempio, racconta. Per esempio con Rafsanjani, perché a un certo punto Hashimi si è rivolto a Renzi citando la 30ª sura del Corano sui Romani, che dice: i Romani hanno perso le battaglie coi persiani, ma torneranno per la gioia del popolo. E poi ci sono state anche... E Renzi cosa gli ha risposto? Beh, era naturalmente... Conosceva quella sura? Esatto, non credo, però ha avuto una risposta molto pronta quando Khamenei ha attaccato gli Stati Uniti e i rapporti con l'America. E lì Renzi ha avuto una risposta pronta, perché ha detto: io quando è cominciata questa storia io avevo 4 anni, quindi non posso certamente contrastarla nella sua opinione. Ah, cioè è scappato, diciamo. grazie Alberto. 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per gli sms. E Mario, allora, insomma, mi sembra che con l'Iran le cose si sviluppino nella direzione giusta. Beh, Alberto ha fatto un quadro preciso. Io aggiungo solo che è doveroso da parte del governo, qualsiasi governo, andare a vedere che cosa succede in quel mercato, un mercato potenzialmente molto ricco, come già ha spiegato. E poi la cosa interessante dal punto di vista strategico è che anche a me pare che l'Iran si è messo molto bene per diventare la vera potenza regionale, il punto, diciamo, di equilibrio o comunque di dominio, mettiamola così, di tutta l'area. Insomma, l'Iran sale e l'Arabia Saudita scende. Sì, e lì c'è l'incognita, come già toccato nel colloquio tra te e Negri, del confronto con l'Arabia Saudita, certo, che è il miglior alleato degli americani, armato dagli americani e dunque molto pericoloso. Ecco, Pietrangelo, tu critichi sempre molto gli Stati Uniti e con le tue argomentazioni forti, però obiettivamente gli americani con Obama sono loro che hanno decretato e hanno forzato la situazione. Pensa come è stato complicato farla digerire a Israele, che poi non l'ha digerita per niente, no? La fine delle sanzioni. Ecco, lì c'è stato un passo avanti di realpolitik, come minimo. Beh, è il punto di realtà a muovere le cose. I repubblicani, lo ricorderete, hanno fatto sapere che stracceranno l'accordo appena conclusa la presidenza Obama. Lo hanno fatto sapere, l'hanno minacciato, ed è sempre più forte. Tant'è vero che perfino in Italia i loro addentellati, ieri su Repubblica c'era un'inserzione pubblicitaria a pagamento che terrorizzava chiunque abbia intenzione di andare in Iran con delle argomentazioni capziose, perfino ridicole, ma che comunque erano pagate e pubblicate apposta per evitare che chiunque voglia andare a crearsi un mercato in Iran. Ma però sono tanti gli imprenditori che invece sono andati. Sì, però proprio è ieri io ne ho incontrato tre o quattro che vanno e aprono l'azienda. Certo, punto. Quello sì, però è significativo che ci sia questo odio scientifico continuato anche rispetto all'Iran, e credo sia ormai anche un pregiudizio razziale a questo punto, è proprio un vero e proprio razzismo. Però volevo rispondere alla tua domanda. Ormai la realtà non è più quella unipolare con un solo gendarme, certo. La realtà è multipolare. C'è stato Renzi, però in questi giorni c'è stato anche la visita di Stato del Kazakistan. Il Kazakistan, ed è una fatica appunto perché purtroppo non conosciamo la geografia, è una vera e propria Australia nel bel mezzo del Centro Asia, ma Australia nel senso che è ricchissima, certo. Quindi è sempre la realtà a dettare l'agenda della politica. Ecco, ma dove sono finiti gli integralisti del governo di Ahmadinejad, secondo te? Un po' sotto traccia, tenuti. Sai, lì hanno una visione della politica particolare. Alberto Negri l'ha spiegato bene. Ahmadinejad, che è stato un riferimento fondamentale, ha seguito il cambio della situazione. Adesso lo si incontra in metropolitana e va a lavorare, cioè sta cambiando, insegna all'università. Però è una realtà dove tutto questo mondo c'è, se posso permettermi, certo, proprio una precisazione. Non è tanto una società teocratica, uno stato teocratico, più che altro è teocentrico. Tant'è vero che ne fanno un punto d'onore, e nei colloqui che hanno avuto con Matteo Renzi è stato specificato, proprio perché è stato introdotto immediatamente quello che non è soltanto un confronto pro forma tra cristianesimo e Islam, ma un vero e proprio incontro laddove le due religioni vengono spiegate, raccontate e vissute come raggi di una stessa luce. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Margherita Paolini, che è esperta di geopolitica, coordinatrice scientifica di Limes. Ecco, per entrare nel merito proprio dei numeri, a quanto ammontano le riserve di petrolio dell'Iran? Buongiorno. Guardi, dobbiamo dire una cosa un po' spannometrica. Formalmente sono tra i 150 e i 160 miliardi di barili, però bisogna anche tener conto del fatto che l'esplorazione, lo sviluppo, quindi l'accertamento delle riserve di oggi, le ultime sono state fatte nel 1965. Beh, quindi non possiamo valutare oggi come sarebbe certo. La se... C'è tutto il Caspio anche, no? Certo. E qual è l'obiettivo di produzione di terra? Si sa oppure non è ancora dato saperlo? Più che l'obiettivo di produzione è l'obiettivo di esportazione. Sì, no? Di esportazione. Che hanno in questo momento gli iraniani, certo. Ovviamente. E loro vorrebbero tornare sostanzialmente ad esportare almeno quello che esportavano prima delle sanzioni, nel momento migliore di esportazioni in Europa. Quindi loro vogliono arrivare a esportare 2 miliardi e 2 di barili, il che vuol dire che ne devono produrre 4. Okay. Milioni di barili al giorno, scusi, non miliardi, milioni, certo. Di barili al giorno. Miliardi mi sembravano un po' tanti. Ma come inciderà sul mercato mondiale questo livello altissimo comunque di produzione? Ma con i prezzi già così bassi. Il mercato ne ha già tenuto conto da diversi mesi, e questa è una delle ragioni per cui ha compresso il mercato sui prezzi, no? Ah, quindi i prezzi sono bassi perché il mercato ha già scontato l'arrivo dell'Iran. Per andare con calma, passo dopo passo, l'ingresso dell'Iran nel mercato ha innescato una lotta ancora più dura con i sauditi, questo Beh, è sicuro. C'è una lotta, sì, di prezzi più che di altro. Di prezzi, naturalmente. Prezzi, di prezzi, di sconti, cioè. Sì. E qui gli sconti si fanno tra l'Iran, la Russia e ovviamente l'Arabia Saudita. Gentiloni invece è in Libia. Per tenere in piedi questo governo libico sponsorizzato dall'ONU, secondo lei è un'operazione disperata o è un segnale politico per l'Egitto? No, non direi che è un'operazione politica disperata, è un'operazione politica dovuta. Dovuta, ma con qualche possibilità di riuscita. Ma è anche un segnale politico per l'Egitto molto importante in questo momento. Dottoressa Paolini, gli Stati Uniti però premono molto perché l'Italia prenda in qualche modo la guida delle azioni in Libia. È in fondo anche di una possibile guerra. È un'ipotesi che è in campo oppure è solo una minaccia? Io le direi che sono molto più ottimista adesso di prima. Dobbiamo aiutarli tutti, certo. Su come si può suddividere equamente la rendita petrolifera, le ricchezze del paese, come si può fare... Ma quindi lei parla di un'ipotesi di divisione del paese? No, non di divisione, ma di ridistribuzione della rendita petrolifera. Ho capito. Sì, e quello non è facile, ma è possibile. È possibile. L'importante è che ci sia una sola compagnia petrolifera e non due come si era profilato. Certo, perché senta, quello allora sarebbe stato veramente un caos. Senta, ma quando si parla di Libia, dei rapporti con l'Italia, bisogna fare discorsi diversi. Uno per gli approvvigionamenti di gas e uno per l'import del petrolio. Il gasodotto Green Stream, che lega direttamente la Libia all'Italia, potrebbe essere in pericolo in caso di, come dire, in realtà di un peggioramento della situazione politico-militare? No, secondo me no. L'unica cosa che può succedere è che facciano dei sabotaggi o qualche cosa all'impianto di emergenza, che è l'impianto che raffina il gas che poi viene immesso nel gasdotto. Ma quanto è diminuita la produzione di greggio in Libia dalla morte di Gheddafi a oggi? È scesa a 300.000 barili, deve tornare quindi era un quarto di quello che era la produzione. Ho capito. Ma si potrebbe immaginare di sostituire la Libia con l'Iran come fornitore di petrolio? Diciamo che sì, si potrebbe anche pensare. Penso che sarebbe bene poterlo prendere da tutte e due. Esatto, vabbè, è quello nel caso in cui si risolve l'Iran il problema. Soprattutto c'ha una produzione speciale di petrolio, sì, che è una via di mezzo tra il gas e il petrolio, che è una produzione di condensati, è un prodotto veramente molto molto prestigioso, molto ricco. Secondo lei il viaggio di Renzi in Iran è da considerarsi un successo? Insomma, ma le ditte avevano già trattato, le cose già si sapevano, le condizioni che l'Iran offre sembrano tutte molto appetibili, e siccome sono appetibili per tutti è anche meglio arrivarci prima. Senta, però l'Iran ha bisogno di un sostegno strutturale, formativo, di trasferimento di tecnologie e dopo possiamo fare tante altre cose. Senta, gli italiani devono ancora cullarsi sugli allori dei prezzi bassi a lungo o è meglio potenziare la politica di esplorazione di nuovi giacimenti con l'ENI? Ma dove intende esplorazione intorno all'Italia o in generale? In generale naturalmente ha già cominciato, pensiamo all'Egitto eccetera e altre, mi sembra che sia una strada già che si sta percorrendo, no? Il gas sta, diciamo, i prezzi del petrolio e poi anche quello del gas piano piano stanno risalendo, ma stanno risalendo perché diciamo c'era una insostenibilità di tutta l'industria del gas dei prezzi bassi. Quindi le esplorazioni bisogna continuarle comunque. Certo, ecco. Però quelle quattro gocce di petrolio, quattro bolle di gas che sono nell'offshore nostro, forse sinceramente sono sprecati, ecco. Cosa vuol dire? Che riguardo all'Italia bisogna continuare a farle o no queste esplorazioni? Direi che lasciare a delle società prevalentemente straniere che possono portarsi fino all'ultima bolla di gas. Cioè facciamocelo noi, dice lei, portiamocelo via noi. Ma no, teniamolo lì perché tanto sono poca roba. È inutile trivellare? È inutile trivellare, soprattutto stiamo parlando intorno all'Italia, vicino ai parchi del mare. Vabbè, robe questo, il gioco non vale proprio la candela, insomma. Ecco, va bene, voglio dire. Insomma, lei cosa voterà al referendum? Sì, certamente. Ecco, vabbè, insomma, Mario, per noi insomma non è solo una questione di petrolio, tutto sommato. No, c'è un potenziale interscambio molto grande con l'Iran. Adesso per effetto delle sanzioni si era ridotto a poco più di un miliardo, ma ci sono stime che intanto il raddoppio, anzi triplicato a tre, è abbastanza semplice, già così, basta mettersi a testa bassa, no? lavorare. La SACE ha una proiezione molto interessante per i prossimi anni di 20 miliardi quasi, 19 miliardi di interscambio. Diventa un paese, per dare l'idea, l'Egitto, che per noi è un paese importante, oggi è a 5. Quindi secondo me l'Iran è un mercato pazzesco per gli italiani che fanno meccanica, infrastrutture, non solo, ma formazione del personale, hanno bisogno di moltissime cose. Ecco, ed è gente molto intelligente. Ecco Pietrangelo, tu che vai spesso in Iran, che cosa bisogna capire veramente fino in fondo dell'Iran per poterci costruire qualcosa insieme di duraturo? Forse capire noi stessi, perché così come i russi sono europei col samovar, loro sono europei col tappeto, è la stessa schiatta, la stessa storia, la stessa linfa, sono indoeuropei. Molto spesso abbiamo un pregiudizio perché non riusciamo a capire che cosa siano quelle elegantissime tuniche. Come dire, è una storia che conosciamo. Cioè l'ignoranza superata potrebbe aiutarci. Orientale e occidentale. Ecco Mario, c'è una canzone per chiudere. Sì, mi veniva in mente una bellissima canzone di Arisa che secondo me ci aiuta appunto a capire quello che consideriamo diverso, ma che diverso non è, guardando il cielo. Se tu mi chiedi cosa faccio in questa vita, amico mio, la sola cosa che so dirti e non lo so nemmeno io. Viviamo tempi troppo steri, siamo animali di città. Eppure sai che ogni notte prima di dormire io, che ho preso tutto da mia nonna, faccio una preghiera a Dio. Potrà sembrarti rituale, però a me dà serenità. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, per i vostri sms. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane. Mix 24. Ci sono un sacco di interventi, tantissimi interventi, ma c'è uno che mi ha colpito molto per te, Pietrangelo. Dimmi. Perché le tue analisi colpiscono e spiazzano. Buttafuoco, mi dice questo nostro ascoltatore, Buttafuoco è un intellettuale della Magna Grecia, non riesco a capire questo attaccamento alla destra, io lo vedrei come un Gaetano Salvemini, lo chiedo seriamente, capito? Cioè, no, per dire spiazzi, molto. Qualcuno ci accusa di non parlare del re della Norvegia, di Renzi, che gli voleva stringere la mano, la non gli la stretta, chi se ne frega. Cioè, non mi sembra notizia da prima parte. Posso dire una cosa su Buttafuoco e Salvemini? Dilla. Allora, io non so che cosa è Buttafuoco, eppure lo frequento, insomma, parecchio. È uno che pensa con la sua Però posso dire una cosa, che è l'uomo, uno degli uomini più colti e generosi che io abbia mai incontrato. Nella vita. L'abbiamo già candidato a primo ministro. Applauso. Applausi dalla regia. Dovreste vederlo quanto è rosso. Luca dice: senza fare grandi analisi, gli iraniani hanno grande simpatia per noi italiani e questo sicuramente aiuta i rapporti. Vabbè, speriamo che anche le analisi aiutano questa simpatia a trovare le sue radici. Minoli, la tizia dice Stefano, la tizia di Limes ti ha lasciato di stucco, credevi che fosse Protrivelle, invece sei troppo filo governo, purtroppo, ma un giorno sì, un giorno no, dipende. Va bene, che cazzo ci fai sentire, Stefano? Pietrangelo? Stefano chi è? Quello che scrive. You push me away. Allora, Pietrangelo? E allora oggi alla stazione ho visto due che si lasciavano, un uomo e una donna che si lasciavano. E siccome a volte ci si allontana amaramente, ci si scusa, ma le scuse cadono nelle orecchie ormai sorde, amaramente ci si parla e amarezza avvolge i nomi che fino a poco prima suonavano dolcissimi, e quegli occhi li ho guardati, proprio bruciavano di dolore, e ha chiamato Artemisia Gentileschi, ha voluto questo brano e lo vuole dedicare al suo persecutore con una dedica. Non è un colore, è un pezzo di vita. Pietrangelo, Francesco da Roma ti chiede se c'è il problema dei diritti umani in Iran oppure no. Come no? C'è, totalmente. Se vuole fare la domanda spiritosa, bisogna anche ricordare un altro fatto. No. Che quella stessa pena di morte si trova nella civilissima America. Certo. E se vuole fare lo spiritoso, volendo suggerire che magari... No, so benissimo quali sono i meccanismi, anche perché vengo dal morto e so che non è vivo. Basta sfogliare i giornali e vedere. Per esempio, perché non lo facciamo sapere che la repressione e l'uccisione dei dissidenti capita in Cina, su cui nessuno fa obiezioni, capita in Arabia Saudita, su cui nessuno fa obiezioni, e per quanto riguarda l'Iran non pare che ci siano stati dissidenti uccisi. Io volevo ma solo... è soltanto no, fammi dire a sto punto, ti faccio dire tutto. No, perché mi ha molto colpito quella pagina ieri a pagamento su Repubblica. Ho capito, l'hai detto quello. Eh sì, ma io conosco certi meccanismi, ogni tanto mi viene voglia proprio di... Va bene, abbiamo potuto approfondirlo. Va bene? Sai, io oltretutto giornali a me molto cari, molto amici, ripeto, vengo dal morto e so che non è vivo. Va bene, Mario, la tua bolla. Vuoi una bolla? Sì. Ma poi i diritti umani in Italia, figuriamoci. No, vogliamo parlare, delle torture in Italia. No, scusate, mi state calpestando i dors, io vi faccio secchi, vai. Mamma mia, cosa hanno fatto gli anni 70? Vabbè, devo dire, hanno creatività assoluta. Touch me. Toccare anche le frontiere, ovviamente. Sarebbe bello se non fosse che l'Unione in questo momento, parlo dell'Unione Europea, si sta perdendo, non so se si ritrova, vediamo, nelle stesse frontiere. Però l'Austria sta alzando i muri sul Brennero, l'Italia protesta, dalla Libia, stracitata in questa puntata, arrivano migliaia di migranti, la Germania ne ha presi 1 milione da sola, mentre tutti gli altri starnazzavano. Intanto c'è una notizia tra le tante che ho elencato, e potrei continuare a lungo, che viene dal Regno Unito, e secondo me è molto importante perché dimostra come la politica poi alla fine ha una sua razionalità. Jeremy Corbyn, il leader del Labour, è pronto ad appoggiare David Cameron nella coalizione, sì, nella battaglia per non uscire quindi sul Brexit. Beh, interessante. Sì, questo è molto importante. Vediamo se basta ribaltare quelli che sono per ora dei sondaggi sfavorevoli. Il Labour ha 9 milioni di voti. Se lo seguono tutti, la cosa è fatta. Si tratta di mobilitare l'elettorato. Però ricordo sempre: siamo ad aprile, voi il 24 giugno potreste svegliarvi in un'Europa molto diversa se dovesse vincere l'Exit in questo caso. Salamino! Trivelle e champagne, è veramente un mondo a parte la Sicilia. Allora, vi racconto questa. Il Ministero dello Sviluppo e parte civile a Ragusa chiede 69 milioni di danni per l'avvelenamento del mare, ma già a novembre scorso il governo di Matteo Renzi aveva allungato la concessione di altri 10 anni per raddoppiare gli impianti della Edison. Motivo? La buona gestione. Allora, una, nessuna e 100.000 e la Sicilia va bene, ma anche il governo centrale, manco il governo centrale ci scherza su questi sdoppiamenti. La contraddizione infatti è presto risolta, perché da un lato è parte civile, dall'altro elargisce proroghe, e tra tesi, antitesi, la sintesi è presto detta. Non ci occupiamo di processi, e quindi triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo del bar. Parafrasando Giorgio Gaber, non è certo il Barbera l'oro di Sicilia, ma lo smaltimento di rifiuti. Un servizio di Marco Palombi oggi sul Fatto Quotidiano informa di un'interrogazione parlamentare di Davide Crippa del Movimento 5 Stelle, giusto per capire, senza malizia questa interrogazione, ma giusto per capire, non è che uno può dubitare mai, ma giusto per capire, non è che uno pensa male, no, ma giusto per capire come possa coincidere con tanta buona gestione col processo in corso per smaltimento illecito di rifiuti. Trivelle e champagne dunque. Oltretutto i proprietari della piattaforma sono francesi, la società è appunto la Edison, loro ci mettono le bollicine dello champagne, i siciliani a Munizza. E sapete dov'è la piattaforma? Lo vogliamo dire? Dov'è sta maledetta piattaforma? Dov'è? Diciamolo! Avete riconosciuto? No. Lì, sì, no. Come no? Lui, fai sentire. Fallo sentire, va. Ecco, lì dove fa il bagno il commissario Montalbano, a 12 miglia dalla riserva naturale dell'Irminio tra Marina di Ragusa e Donna Lucata, nella bella playa Trivelle e Champagne. Adesso Alessandra Fiori ci propone una nuova storia di coraggio, di cambiamento, che ci fa vedere il lato meno raccontato del paese, che come sempre arriva dalla rete di Italia che cambia. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muove nuovi mille. Un solo sogno stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Rondine è un borgo vicino Arezzo che negli anni 50 stava per essere abbandonato. Invece, grazie al progetto Rondine, Cittadella della Pace, è diventato luogo di incontro e confronto per decine di ragazze e di ragazzi provenienti da paesi in conflitto tra loro. Ecco, Franco Vaccari, presidente del progetto, cos'è concretamente Rondine, Cittadella della Pace? Sì, è un'esperienza che vive da circa 18 anni e che mette insieme quelli che la storia ha condannato a essere nemici.

Quale sarà la soluzione diplomatica o legale del suo caso? Indagini, documenti, testimoni, verità. Oggi a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, un po' di musica, dai. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so 100 degrees. Che una voce, sì. I got one foot out the door, where are my keys? Un po' tamarrina, eh? Però, leave, yeah. In regia siamo, c'è un mix di sensazioni. Vabbè Giovanni, insomma c'è un'Europa che, di cui io sono molto convinto eccetera, ce n'è un'altra che invece, mamma mia, io non so, mi chiedo, fa un po' paura. Beh, mi chiedo dove abitino più che altro. Allora, ho scoperto, leggendo stamattina il Politico, per fare un po' la mia rassegna stampa di tutti i giorni, beh, insomma, questi devono assumere 110 autisti per i parlamentari europei. Chi devono assumere 110? Il Parlamento europeo deve assumere 110 autisti. Ne hanno pochi? Con un budget complessivo di 10 milioni di euro, oltre 10 milioni di euro. Ora, tutto questo è una riforma innescata per motivi di sicurezza. Va bene, però 10 milioni di budget, 110 autisti, in un momento in cui l'Europa lentamente sta provando a uscire da 5 anni di recessione. Ma si rendono conto? Sì, non sono le prime spese a fare, poi dopo contestano. Non so, hanno un budget pazzesco. Contestano la spesa corrente degli stati, ma loro poi tu sai fanno che io di peggio. Scusa, ma poi io, che sono, tu sai, non cedo certo alla demagogia, sono un realista, uno che guarda le cose provando ad applicare il buon senso. Però diamine. Non lo so, secondo me c'è qualcosa che non va nella loro testa. No, certamente, la burocrazia quando prende il potere diventa assolutamente cieca. Sì, perché riproduce cioè, se stessa. Sono tutte cose che poi fanno male alla causa invece di un mercato unico, di istituzioni che funzionano, di stabilità. E vabbè, becchiamoci questi 110 autisti in Europa. Claro. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ci propone? Oggi una canzone per chi perde la ragione per i toni, i profumi, i movimenti, insomma, con tutti i cinque sensi. Mina, se c'è una cosa che mi fa impazzire. Se c'è una cosa che mi fa impazzire. C'è una cosa che mi fa impazzire.